Giovanni Paolo II, uomo e donna li creò, catechesi del mercoledì. Il principio, primo ciclo, numero 7. Nella definizione stessa dell'uomo, l'alternativa tra morte ed immortalità. Ci conviene ritornare ancora una volta sul significato della solitudine originaria dell'uomo, che emerge soprattutto dall'analisi del cosiddetto testo yavista di Genesi 2. Il testo biblico ci permette, come abbiamo già constatato nelle precedenti riflessioni, di mettere in rilievo non soltanto la coscienza del corpo umano, l'uomo è creato nel mondo visibile come corpo tra i corpi, ma anche quella del suo significato proprio. Tenendo conto della grande concisione del testo biblico, non si può, senz'altro, ampliare troppo questa implicazione. È però certo che tocchiamo qui il problema centrale dell'antropologia. La coscienza del corpo sembra identificarsi, in questo caso, con la scoperta della complessità della propria struttura che, in base ad una antropologia filosofica, consiste in definitiva nel rapporto tra anima e corpo. Il racconto yavista, col proprio linguaggio, cioè con la sua propria terminologia, lo esprime dicendo: il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente. Genesi 2:7. Nota 1. L'antropologia biblica distingue nell'uomo non tanto il corpo e l'anima, quanto corpo e vita. L'autore biblico presenta qui il conferimento del dono di vita mediante il soffio che non cessa di essere proprietà di Dio. Quando Dio lo toglie, l'uomo ritorna in polvere dalla quale è stato tratto. Cifra Giobbe 34, 14, 15, Salmo 104, 29 e seguito. E proprio quest'uomo, essere vivente, si distingue in continuazione da tutti gli altri esseri viventi del mondo visibile. La premessa di questo distinguersi dell'uomo è proprio il fatto che solo lui è capace di coltivare la terra, Genesi 2:5, e di soggiogarla, Genesi 1:28. Si può dire che la consapevolezza della superiorità iscritta nella definizione di umanità nasce fin dall'inizio in base ad una prassi o comportamento tipicamente umano. Questa consapevolezza porta con sé una particolare percezione del significato del proprio corpo, la quale emerge appunto dal fatto che sta all'uomo coltivare la terra ed assoggettarla. Tutto ciò sarebbe impossibile senza un'intuizione tipicamente umana del significato del corpo, del proprio corpo. Sembra quindi che occorra parlare innanzitutto di questo aspetto piuttosto che del problema della complessità antropologica in senso metafisico. Se la originaria descrizione della coscienza umana riportata nel testo yavista comprende nell'insieme del racconto anche il corpo, se essa racchiude quasi la prima testimonianza della scoperta della propria corporeità e perfino, come è stato detto, la percezione del significato del proprio corpo, tutto ciò si rivela non in base ad una qualche primordiale analisi metafisica, ma in base ad una concreta soggettività dell'uomo abbastanza chiara. L'uomo è un soggetto non soltanto per la sua autocoscienza ed autodeterminazione, ma anche in base al proprio corpo. La struttura di questo corpo è tale da permettergli di essere l'autore di un'attività prettamente umana. In questa attività il corpo esprime la persona. Esso è quindi, in tutta la sua materialità, plasmò l'uomo con polvere del suolo, quasi penetrabile e trasparente, in modo da rendere chiaro chi sia l'uomo e chi dovrebbe essere grazie alla struttura della sua coscienza e della sua autodeterminazione. Su questo poggia la fondamentale percezione del significato del proprio corpo, che non si può non scoprire analizzando la solitudine originaria dell'uomo. Ed ecco che, con tale fondamentale comprensione del significato del proprio corpo, l'uomo, quale soggetto dell'antica alleanza col Creatore, viene posto dinanzi al mistero dell'albero della conoscenza. Tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché quando tu ne mangiassi, certamente moriresti. Genesi 2:16-17. L'originario significato della solitudine dell'uomo si basa sull'esperienza dell'esistenza ottenuta dal Creatore. Tale esistenza umana è caratterizzata appunto dalla soggettività, che comprende pure il significato del corpo. Ma l'uomo, il quale nella sua coscienza originaria conosce esclusivamente l'esperienza dell'esistere e quindi della vita, avrebbe potuto capire che cosa significasse la parola morirai? Sarebbe stato egli capace di giungere a comprendere il senso di questa parola attraverso la complessa struttura della vita datagli quando il Signore Dio soffiò nelle sue narici un alito di vita? Bisogna ammettere che questa parola completamente nuova si è apparsa sull'orizzonte della coscienza dell'uomo senza che egli ne abbia mai sperimentato la realtà, e che nello stesso tempo questa parola si è apparsa davanti a lui come una radicale antitesi di tutto ciò di cui l'uomo era stato dotato. L'uomo udiva per la prima volta la parola morirai senza avere connessa alcuna familiarità nell'esperienza fatta fino allora. Ma d'altra parte non poteva non associare il significato della morte a quella dimensione di vita di cui aveva fino ad allora fruito. Le parole di Dio Yahweh rivolte all'uomo confermavano una dipendenza nell'esistere, tale da fare dell'uomo un essere limitato e, per sua natura, suscettibile di non esistenza. Queste parole posero il problema della morte in modo condizionale. Quando tu ne mangiassi, moriresti. L'uomo, che aveva udito tali parole, doveva ritrovarne la verità nella stessa struttura interiore della propria solitudine, e, in definitiva, dipendeva da lui, dalla sua decisione libera scelta, se con la solitudine fosse entrato anche nel cerchio dell'antitesi rivelatagli dal Creatore, insieme all'albero della conoscenza del bene e del male, ed avesse così fatto propria l'esperienza del morire e della morte. Ascoltando le parole di Dio Yahweh, l'uomo avrebbe dovuto capire che l'albero della conoscenza aveva messo le radici non soltanto nel giardino in Eden, ma anche nella sua umanità. Egli inoltre avrebbe dovuto capire che quell'albero misterioso nascondeva in sé una dimensione di solitudine fino ad allora sconosciuta, dalla quale il Creatore lo aveva dotato in mezzo al mondo degli esseri viventi, ai quali lui, l'uomo, dinanzi allo stesso Creatore, aveva imposto nomi per giungere a comprendere che nessuno di loro gli era simile. Quando dunque il fondamentale significato del suo corpo era già stato stabilito attraverso la distinzione dal resto delle creature, quando per ciò stesso era divenuto evidente che l'invisibile determina l'uomo più che il visibile, allora dinanzi a lui si è presentata l'alternativa collegata strettamente e direttamente da Dio Yahweh all'albero della conoscenza del bene e del male. L'alternativa tra la morte e l'immortalità, che emerge da Genesi 2:17, va oltre il significato scatologico, non soltanto del corpo, ma dell'umanità stessa, distinta da tutti gli esseri viventi dei corpi. Questa alternativa riguarda però, in un modo del tutto particolare, il corpo creato dalla polvere del suolo. Per non prolungare di più questa analisi, ci limitiamo a constatare che l'alternativa tra la morte e l'immortalità entra sin dall'inizio nella definizione dell'uomo e che appartiene da principio al significato della sua solitudine di fronte a Dio stesso. Questo originario significato di solitudine, permeato dall'alternativa tra morte ed immortalità, ha anche un significato fondamentale per tutta la teologia del corpo. Con questa constatazione concludiamo per ora le nostre riflessioni sul significato della solitudine originaria dell'uomo. Tale constatazione, che emerge in modo chiaro ed incisivo dai testi del libro della Genesi, induce anche a riflettere tanto sui testi quanto sull'uomo, il quale ha forse troppo scarsa coscienza della verità che lo riguarda e che è racchiusa già nei primi capitoli della Bibbia. Note: l'imperativo di Yahweh è quindi in qualche modo già iscritto nella natura costitutiva dell'uomo originario. Da questo passaggio appare chiaro che la modalità di uscita di Adamo dalla solitudine originaria dipende anche da una sua libera scelta. Poteva sfociare in un abbandono virginale consapevole alla dipendenza costitutiva da Dio, ed è invece finito col peccato nell'antitesi del morire. Le radici dell'albero della conoscenza del bene e del male, presenti anche nell'umanità dell'uomo, sono una bellissima immagine per indicare la sua libertà presente fin dal suo stato originario, misteriosamente capace anche di andare contro le leggi di Dio.